È un dato in controtendenza con quanto previsto dagli esperti del settore e quello diffuso dall'Istat. Il prodotto interno lordo, infatti, relativo al primo trimestre di quest'anno fa segnare un più 0,4% rispetto all'ultimo trimestre del 2007. Il dato tendenziale, ossia rispetto allo stesso periodo di un anno fa, è più 0,2%. Il 2008 si chiuderebbe con questo valore se la crescita restasse invariata. Il dato inatteso evidenziato dall'Istituto di Statistica è ottenuto grazie a tre settori che hanno tirato più di altri: agricoltura, industria e servizi. Con i valori di oggi si completa però anche il 2007, che si chiude con un dato negativo congiunturale meno 0,4%, per trovare un valore simile è necessario tornare al secondo trimestre 2003. In termini assoluti, lo scorso anno fa segnare un PIL corretto per i giorni lavorativi pari all'1,4%. In generale, l'Italia, segnala l'Istat, sul fronte della crescita è dietro Germania e Francia, rispettivamente in termini congiunturali all'1,5% e allo 0,6%. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.